Trasmettiamo a colori spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Senti Onda Rossa come suona, senti come suona. Senti Onda Rossa come suona, senti come suona. Sì, senti Onda Rossa come suona, senti come suona. Afa, senti Onda Rossa come suona, senti come suona. E tira su il volume, senti Onda Rossa come suona, senti come suona. Senti come suona, senti Onda Rossa come suona, senti come suona. Senti come suona, senti Onda Rossa come suona, senti come suona. Senti come suona, senti Onda Rossa come suona, senti come suona. E tira su il volume. Senti come suona. Parliamoci chiaro. Noi il sabato sera beviamo tequila, beviamo tequila, beviamo tequila e ascoltiamo musica macchina. Un saluto dal Messico. Channel 2, KPRC TV, Houston. Qui a Parigi, ascoltiamo musica macchina. Abbiamo messo un'antenna sopra la Torre Eiffel. Viva Onda Rossa, vive la France. Forza. Anche qui a Bucarest, tutta la gente rumena, balla balla balla. Noi facciamo festa con musica macchina. Now, Channel 13, Eyewitness News. A Rio de Janeiro é sábado sera, noi balla la samba, com musica macchina. Rendezvous Houston, a laser and light show, is going to use downtown buildings as the stage. Noi tedeschi, adoriamo musica macchina. Grazie Radio Onda Rossa, noi sentire forte forte, sulle nostre Volkswagen. Stage for Saturday's spectacular show of lights, lasers, fireworks and music. Questa è Onda Rossa baby, la radio simpatica, rido, rido tanto, musica macchina. Noi siamo i Borg, abbassate i vostri scudi e arrendetevi. Assimileremo le vostre peculiarità biologiche e tecnologiche alle nostre. La vostra cultura si adatterà a servire noi. La resistenza è inutile. Thank you. Buonasera a tutti gli ascoltatori, in voce con voi c'è Amptech, Alex Marenga, per questa puntata di Musica Macchina, puntata speciale che inizia con un brano dei Kraftwerk, uno dei loro brani più popolari, emblematici della loro svolta pop elettronica, che dà l'avvio a una puntata dedicata al cosiddetto Kraut Rock, ovvero il rock tedesco degli anni 70, di cui i Kraftwerk sono forse gli esponenti oggi più famosi, ma che al suo interno ha avuto tantissimi protagonisti importantissimi sia per lo sviluppo della musica di oggi, in particolare della musica elettronica, sia per quello che era la scena degli anni 70, nella quale, oltre al rock anglo-americano, ma anche a quello italiano, che era molto creativo, ebbero una importanza centrale, anche successo commerciale direi in un certo momento, tutta una serie di gruppi tedeschi che hanno realizzato dischi pregni di un sound originale, interessante e creativo. Naturalmente la musica degli anni 70 va collocata all'interno di una cornice storica che in Germania assume delle connotazioni particolari. La Germania esce dalla Seconda Guerra Mondiale completamente devastata e divisa in due. In quella fase, tra il 1945, la fine della guerra, e la caduta del muro di Berlino, la Germania sarà divisa in due stati, frutto della contrapposizione fra i paesi socialisti e il blocco capitalista. Quindi Berlino, capitale, simbolo dell'unità tedesca, sarà una città divisa in due, e il territorio nazionale tedesco stesso sarà un territorio diviso fra due sfere di influenza che fanno capo alle due superpotenze che in quel momento si stanno contrapponendo. Un altro elemento fondamentale è che la Germania, nella fase precedente alla guerra e durante la guerra, è stata governata dal regime nazionalsocialista. Il regime nazista era stato preceduto dalla Repubblica di Weimar, uno dei momenti di massima crisi economica per la superpotenza tedesca, che era stata umiliata nella sconfitta della Prima Guerra Mondiale, ma anche uno dei momenti di massima creatività artistica e teatro, quindi la Repubblica di Weimar, di grandi momenti di sperimentazione e di avanguardia. Ricordiamo per esempio la Bauhaus, ma anche tutti i grandi protagonisti non soltanto dell'arte e della cultura, ma anche della scienza tedesca durante la Repubblica di Weimar, che spesso furono costretti a lasciare il paese a causa dell'avvento del nazionalsocialismo. La Germania del dopoguerra è quindi un paese quasi completamente azzerato culturalmente. La generazione che tra gli anni 50 e gli anni 70 ha tra i 30 e i 40 anni è una generazione che è nata e cresciuta durante il nazionalsocialismo. C'è quindi una specie di buco storico-culturale che alla fine degli anni 60 viene colmato dalla rivoluzione tecnologica, quella degli elettrodomestici, della televisione, dei dischi, dei giradischi, che portano anche in Germania, specialmente rivolta ai giovani nati dopo la guerra, portano le nuove forme di cultura giovanile che provengono dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, in particolare il rock. E il rock rappresenterà uno dei grandi elementi di trasformazione della Germania a partire dagli anni 70, e probabilmente questa sua novità andrà a connettersi al movimento studentesco di contestazione della fine degli anni 60, che in Germania ebbe forti connotazioni contestativo-rivoluzionarie, e anche la musica tedesca ebbe un assetto fondamentalmente sperimentale e radicale. abbiamo ascoltato un brano degli Amundul tratto dal lavoro Psychedelic Underground. Gli Amundul sono probabilmente il gruppo che viene indicato come capostipite di questo rock nuovo che nasce nella Germania della fine degli anni 60. Legati al movimento studentesco e rivoluzionario tedesco, che ha forti accenti insurrezionali. In Germania nasceranno delle formazioni armate come la Rote Armee Fraktionen, che tenteranno, come in Italia avvenne per le Brigate Rosse, per Prima Linea, tenteranno di sovvertire lo Stato tedesco e si scontreranno con dei momenti di repressione molto dura. All'interno del movimento studentesco, che trova immediatamente, essendo la Germania uno dei fronti principali dello scontro interno alla Guerra Fredda, troveranno immediatamente una forte reazione di polizia. All'interno di questo movimento nasceranno varie realtà culturali, e quella degli Amundul sarà una realtà legata a un'ideologia più vicina al mondo psichedelico e freak. E la psichedelia inglese sarà una delle forti vene che influenzeranno tutto il movimento tedesco. Tra il 1966 e il 1968 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti anche i gruppi di maggior successo commerciale come i Beatles si stanno agganciando a questa vena legata all'uso delle droghe psichedeliche e stanno in qualche modo diffondendo un certo tipo di sonorità. Quella dei primi Pink Floyd anche sarà determinante in questo biennio, in cui nascono tutta una serie di formazioni. Gli Amundul sono una di queste, e da collettivo libero che fa improvvisazioni senza soluzioni di continuità, gli Amundul diventano anche un gruppo più stabile e cambieranno nome in Amundul 2. Quindi esisteranno dischi e tra l'altro in contemporanea due formazioni, una che si chiama Amundul, l'altra che si chiama Amundul 2. La seconda avrà maggior successo commerciale perché avrà intenti di integrazione all'interno del mondo discografico maggiori, mentre la prima resterà una formazione underground molto aperta, molto libera, protagonista in realtà di lunghe improvvisazioni sperimentali. Dall'album Pallus Dei di Amundul 2 ascoltiamo un estratto. Questa è sempre musica macchina, in voce con voi c'è Amptek Alex Marenga. Questo era un brano da Pallus Day degli Amundul 2, il brano si intitola Dem Guten Schönen Waren, il secondo brano di questo lavoro, e gli Amundul avranno anche un certo successo commerciale in Gran Bretagna e gradualmente sposteranno il loro suono verso orizzonti più vicini a un certo tipo di aspettativa commerciale. Gli Amundul saranno originari di Monaco di Baviera. Le città attorno alle quali si muove il cosiddetto krautrock sono appunto Monaco, Francoforte, Düsseldorf e Berlino. Un altro progetto che vede i suoi natali proprio a Monaco è quello dei Popol Vuh. I Popol Vuh sono un gruppo che ruoterà attorno a un compositore polistrumentista che si chiama Florian Frick. Il suono dei Popol Vuh è decisamente più sperimentale, vaga fra suoni elettronici e suoni acustici. La sperimentazione sarà una delle caratteristiche fondanti del krautrock e quelli che stiamo ascoltando sono ancora, rientrano ancora fra gli artisti più convenzionali della scena tedesca. In realtà la scena tedesca aveva degli artisti molto più radicali, alcune cose le sentiremo naturalmente. Questo perché? Perché uno dei personaggi fondamentali della cultura tedesca del dopoguerra non era un protagonista della musica pop o della musica giovanile, bensì della musica classica. Nel dopoguerra, sia a Parigi che a Milano, presso lo studio di fonologia musicale della RAI, ma anche in Germania, erano nati dei progetti di sperimentazione attorno ai musicisti classici e agli enti radiotelevisivi di Stato, enti e studi che sperimentavano le nuove frontiere della musica elettronica. Naturalmente questi personaggi che studiavano e facevano questi esperimenti non erano ragazzi smanettoni, ma tutto questo armamentario era destinato ai compositori di musica classica e la scuola di Colonia era stata una delle più importanti in Europa e uno dei compositori più conosciuti a livello europeo per tutto il dopoguerra fino alla sua morte pochi anni fa è stato Karlheinz Stockhausen. L'influenza di Karlheinz Stockhausen arriva quindi fino ai gruppi del krautrock. una delle caratterizzazioni di questa musica sarà appunto l'influenza dell'elettronica di matrice colta. Ma torniamo ai Popol Vuh. I Popol Vuh realizzeranno una serie di album di musica assoluta, cioè di album senza secondarie finalità, e una serie di colonne sonore, e diverranno famosi in tutto il mondo grazie a questo lavoro sulla colonna sonora. Popol Vuh inizieranno una collaborazione fin dagli anni 70 con uno dei nuovi grandi registi della scena cinematografica tedesca. Infatti, oltre alla musica, negli anni 70 un altro dei grandi movimenti culturali di rinascita del paese ruoterà attorno al cinema. Ricordiamo figure come quella di Margareta von Trotta o di Fassbinder o di Wim Wenders, un altro uomo, un altro protagonista, regista e autore fondamentale in quella fase storica è stato Werner Herzog, e Florian Frick collabora per molti anni con Werner Herzog realizzando delle colonne sonore meravigliose per i suoi film, e ci ascoltiamo un estratto da quella che è una delle più belle colonne sonore che Popol Vuh hanno realizzato per Werner Herzog, da un film meraviglioso che consiglio a tutti di rivedere, che si chiama Aguirre. E a grande potenza, lunghissima durata. Tenuta al 100%. Nate apposta per registratori, calcolatori, radio e per tutti gli apparecchi a motore. Il primo trattamento reversivo antietà di HC501.